mai la situazione sociale può essere così legata a quelle che sono le prospettive politiche. Qualche giorno fa è stata l'approvazione unanime dell'estensione della legge di emergenza alimentare, che era stata richiesta da Chiesa e sindacati, quindi questo significa più del 50%, un aumento del 50% di alimenti distribuiti alle fasce, diciamo, più deboli della società. E in verità in Argentina ci troviamo di fronte a un vero e proprio disastro sociale, una sorta di catastrofe, direi, un'accelerazione dell'impoverimento dei settori più bassi della società argentina. E per dirti, un paese notoriamente che è produttore di alimenti, pullulano bambini alla ricerca di cibo nella spazzatura, bambini che dormono in strada, intere famiglie che dormono in strada, anziani in fila per un tozzo di pane, anche accampamenti per la città, quindi un ritorno anche delle proteste di fronte al Ministero dello Sviluppo Sociale a Buenos Aires. C'è un presidio, una specie di accampamento praticamente fisso. Sono ritornate le ollas popolari, ossia le pentole popolari che danno da mangiare nelle strade a cura dei vari collettivi, come ad esempio il vecchio Barrios de Pie, che è un vecchio collettivo che nel 2001 aveva un po' mobilitato dietro a queste ollas popolari tutta la protesta che poi sfociò nel cosiddetto elicotteraso, ovvero sia la fuga del presidente Fernando de la Rúa, di conseguenza alla crisi sociale e alle proteste che tutti ricordiamo. In questo gli elementi di lettura sono le classi medie che sono state colpite fortemente dal 2018, dalla crisi del 2018 dell'anno scorso, quindi hanno tagliato servizi di pulizia, giardinaggio, babysitting che solitamente vengono svolti dai settori più umili della società. Le imprese di luce e gas hanno informato di aver tagliato il servizio a moltissime famiglie della classe media, e questo evidentemente ha un significato, ovvero sia che non solo le classi deboli sono colpite da questa crisi, ma anche i settori medi sempre più impoveriti. E quindi l'urto, diciamo, forte della crisi del 2018 ha portato poi alla richiesta di un prestito al Fondo Monetario Internazionale, ecco, porre riparo a questa crisi lampo dopo la sconfitta anche del governo alle elezioni primarie dello scorso agosto. Le elezioni primarie sono un po' un termometro della situazione politica e di quello che avverrà poi nelle elezioni del 27 ottobre prossimo. Un altro dato, l'Istituto Nazionale de Statistica si Censo, ovvero sia una specie di Istat argentino, parla di un indice di inflazione sopra il 4%, quindi un tasso annuale del 55%. Il latte è aumentato del 95,5% in 12 mesi, i pannolini del 94%. Quindi la povertà nel primo trimestre di quest'anno dal 27 è passato al 32%, ormai marcia verso il 34%, con proiezione sopra il 39% a fine anno. E se nel 2018 abbiamo un aumento di 3 milioni di poveri in più in Argentina, è una povertà al 35%, che è il dato poi che si ebbe nel 2001, quindi una situazione sicuramente critica dal punto di vista socio-economico. Un altro dato, i minori di 14 anni che sono in uno stato di povertà sono aumentati fino al 49,6%, quindi diciamo così, dando una lettura a tutto ciò, le promesse del governo Macri, ovvero sia migliorare l'economia, la crescita, abbassare l'inflazione, aumentare il consumo e abbassare la povertà, e praticamente ha fallito un po' in tutti questi obiettivi che si era dato, e il peggioramento è assolutamente generalizzato. E ovviamente tutto ciò si riverbera sulla sfera politica, quindi specie adesso, appunto, a pochi giorni dall'elezione che si saranno il 27 ottobre. L'Argentina è attualmente il paese più indebitato dell'America Latina, paese che ha il secondo paese che ha il rischio paese, scusa il gioco di parole, più alto, quindi il pericolo per gli investitori esteri è grande, e il pericolo di default dell'interruzione del pagamento del debito è molto alto. Quindi di fronte a questo il governo Macri ha chiesto nel 2018 57 milioni di dollari di prestito al Fondo Monetario Internazionale. Questo è un film già visto, che se parliamo della crisi del 2001 tutto si ebbe poi con il default nei confronti proprio del prestiti del Fondo Monetario Internazionale. Quindi il governo Macri ha portato avanti un piano straordinario recentemente, dove adotta tre misure che erano proprie del periodo kirchnerista, quindi del periodo in cui erano al governo fra il 2003 e il 2015 i coniugi Kirchner, prima Néstor Kirchner e poi Maria Cristina Fernández de Kirchner, sua moglie, ovvero sia il congelamento delle tariffe, una sorta di default selettivo che sarebbe un po' lungo da spiegare, e il controllo dei capitali, ovvero sia massimo che le imprese possono comprare in dollari, 10.000 dollari al mese. Quindi questo ha scatenato un po' anche l'ironia popolare, perché la compagine governativa si chiama Juntos por el Cambio, no? Uniti per il Cambio, adesso viene chiamato Juntos por el Control del Cambio. cambio. Quindi dal punto di vista dei sondaggi e della popolarità, ecco, dell'attuale governo, siamo ai punti più bassi. Lo scorso agosto abbiamo appunto avuto queste primarie in cui la compagine, diciamo, di centro-sinistra populista dei cosiddetti Fernandez, ovvero sia Alberto Fernandez, il delfino di Maria Cristina Fernandez de Kirchner, hanno avuto il 49,5%, e invece Macri, l'attuale presidente, solo il 33%. E questo evidentemente è un segno di uno scontento popolare abbastanza trasversale dal punto di vista sociale, che è estremamente inquietante naturalmente per chi ne si presenta alle elezioni da parte appunto della compagine governativa. Tu hai citato appunto Alberto Fernandez, è un'alternativa credibile almeno sulla carta? Alternativa credibile per cosa? Per risolvere ovviamente la situazione economica. Economica, direi che è abbastanza compromessa. Sicuramente un cambiamento è auspicato da buonissima parte della società. Il fatto che Macri perda le elezioni è messo in dubbio da pochissimi analisti. Sulle politiche kirchneriste, di cui si ha memoria abbastanza recente, perché Maria Cristina de Kirchner ha governato fino al 2015, si ha un ricordo sicuramente non positivo. Sta di fatto però che queste sono le due opzioni credibili che possono avere la possibilità di arrivare a prendere il governo. Vi ricordo che la legge elettorale argentina prevede che le elezioni sono vinte a chi arriva al 45% dei consensi o al 40% con una differenza del 10% sul secondo, quindi percentuali abbastanza alte. Nella proiezione che si ha dopo le primarie di agosto, con il 49,5% da parte, insomma, dell'opzione populista, evidentemente è significativa e suggerisce che la vittoria sia nelle possibilità, direi, appunto di questa.